Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Le donne che praticano regolarmente attività fisica presentano una diminuzione della possibilità di sviluppare il tumore al seno e questi effetti sono particolarmente evidenti in postmenopausa. Anche il controllo del peso e la dieta mediterranea hanno ricadute positive, ma le donne non lo sanno o non ci credono se, come si evidenzia dai dati del sondaggio condotto dall'AIOM, presentato proprio ieri a Roma, 19% delle donne non cambierebbe il proprio stile di vita per ridurre il rischio e il 46% non sa se lo modificherebbe. A Obiettivo Salute il professor Pinto, presidente AIOM. Noi sappiamo che cosa può favorire o provocare l'insorgenza del cancro della mammella. Lo sappiamo che il menarca precoce, la menopausa tardiva, un po' l'ereditarietà. L'altro fattore di cui si parla poco, che invece possiamo modificare, è quello che è legato all'attività fisica, quello che è legato alla dieta, quello che è legato all'obesità. Tutti questi fattori possono implementare soprattutto la quota di grasso nell'organismo della donna in premenopausa, che influisce sulla produzione di ormoni e quindi può essere correlata all'insorgenza di tumore della mammella. Non possiamo modificare dati genetici, ma sicuramente possiamo modificare lo stile di vita. Un ruolo fondamentale nella prevenzione secondaria è svolto dallo screening mammografico. Il primo step è però rappresentato dall'autopalpazione, un vero e proprio esame salvavita che la donna può eseguire da sola a casa. Va effettuato ogni mese, a partire dai 20 anni, e sulle pagine di Obiettivo Salute il professor Pinto ci spiega come fare. Chi non fa colazione fa soffrire il suo cuore. Lo conferma un'indagine pubblicata sul Journal of the American College of Cardiology, una delle più prestigiose riviste di cardiologia. A Obiettivo Salute il dottor Attilio Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano. L'evidenza è stata che le placche aterosclerotiche presenti a livello arterioso erano presenti solo nel 55-57% delle persone che facevano il breakfast. Erano presenti nel 64% di chi lo faceva con un breakfast leggero e nel 75% di chi saltava completamente la colazione. Questo significa che c'è un effetto legato ad un'azione sugli ormoni legati al riconoscimento dell'energia, legati al grasso di deposito. C'è un intrico vero di ormoni che funzionano come segnale per l'organismo. Non fare la prima colazione significa dare un segnale d'allarme all'organismo e questo reagisce come se fosse sotto stress. Sulle pagine di Obiettivo Salute le regole per preparare una colazione amica della salute della linea. A proposito di linea, uno studio della Mayo Clinic sottolinea che la menopausa regala in una decina di anni 6-7 kg di troppo. Di linea e di menopausa parliamo tra poco nella nostra diretta video. Vi aspetto. Intanto la programmazione di Radio 24 continua come sempre con Melog. Io vi aspetto in diretta video e domani ci sentiamo a mezzogiorno quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta.